Signore e signori, benvenuti nella stanza del nonno. The living legend is here now. Let's welcome him with a big round of applause. The one and only Otis Clay. E abbiamo cominciato come si deve. Musica pazzesca. Questa è gente che suona, eh? Soprattutto dal vivo. Otis Clay. Hard Working Woman. We're gonna party tonight. Do you feel like partying? straordinario artista Otis Clay. Siamo partiti con Hard Working Woman e adesso sempre su Samarcanda, radiosamarcanda.it. Ditelo ai vostri amici però, se no non vale. Vabbè, io la faccio per me intanto. Ma se qualcun altro vuole partecipare e sta bene. Il secondo pezzo che abbiamo scelto da questo concerto dal vivo di Otis Clay si chiama A Nickel and a Nail. Naked and the Nile, and the Nile. Che vuol dire? L'unghia? Vabbè. Traduzione oggi non va. Dovete sapere che questo tipo di sound al nonno, quando era nella sua stanza, piaceva tantissimo. Non ho mai capito perché. Il gruppo si chiama John. Che stiamo ascoltando è Echo Theory. Thank you. Bello, molto interessante, bellissima anche la copertina di questo drone, un tronco stilizzato, no, bellissimo. Ho capito perché gli piaceva, perché era veramente straordinario. Passiamo a Terry Lynn Carrington, batterista che ha lavorato spessissimo con Wayne Shorter. È uscita da poco con un progetto di Max Roach che è andata a recuperare. Si chiama We Insist. Ed è molto, molto interessante. L'altro giorno abbiamo ascoltato Driver Man e adesso ascoltiamo Freedom Day, Part 1. Terry Lynn Carrington. Slave no longer, slave no longer, this is Freedom Day. Oh, oh, oh, oh, oh, Freedom Day, it's free. Throw straordinaria. Avevo detto che era un bel disco e ho sbagliato. Era proprio bellissimo. Esageratamente bello. Che è? Che cos'è? Cos'è questa entrata da principe? Da principe africano? Il divino Miles è arrivato qui alla corte della stanza del nonno. Il divino Miles. Eh beh, è un divino, lo sappiamo che è un divino. Scusate, sto lavorando un po' con i volumi. Ma poi tutto si assesta, Ma era questo il brano che volevi mandare in onda? No, sinceramente no. E qual era il brano che volevi mandare in onda? Questo. Ecco. Ma era più bello quello di prima? Cioè, radiofonicamente, no, c'entrava di più. No, ma questo, secondo me, c'entra anche meglio con il drumming di Terry Lynn Carrington, batterista che abbiamo ascoltato poco prima. Al punto che io tornerei a ascoltare qualche altra cosa da questo nuovo lavoro che si chiama We Insist. Che non vi sentiate circondati, siete capitati su una radio molto molto speciale, molto particolare. una radio dove potete ascoltare la musica scelta da qualcuno che esiste, che c'è, non sono un computer. No, non sono un computer e mi piace sentire musica assieme a voi. Sì, ogni tanto mi piace anche pure parlare sulla musica, cosa che su certi pezzi, su questi, sulla musica classica è considerata scandalosa, ma è il mio ruolo, il ruolo del DJ, di esserci senza schiacciare la musica. Io potrei anche parlare annientando la musica in questo modo, invece non lo faccio, no? La tengo sempre alta, in modo che con l'altro orecchio voi potete ascoltare la musica e non me. Cioè, beh, ma faresti prima state zitto, non è facile così. Ho capito. Ma perché stai parlando? No, perché a me questo pezzo mi ha stufato. Ma oggi sei strano, cioè non ti piace niente. Lo so, ci sono delle giornate in cui faccio delle scelte. No, vado a spiegare. Io se non ascolto i brani in preascolto, prima di mandarli in onda, non riesco a capire che sono quelli che devo andare. Se vado per i titoli o per così dei nomi conosciuti, rischio di sbagliare. E sono già due volte che secondo me, poi magari quando riascolto il programma dico, ma perché non mi stavo zitto, che era bellissimo quel pezzo così. Vabbè. E infatti dopo Miles volevo ascoltare qualche cosa di speciale, ma un'altra cosa si è inserita mentre ne stavo scegliendo una, e questa è abbastanza vicina per tanti motivi. Quincy Jones, Blues Blood. No, è proprio Blows, scritto Blows. Quindi blues suonerebbe, ma è blues, chissà come si pronuncia esattamente. Thank you. Dire che queste persone suonavano molto male, sì. Sì, proprio non hanno coordinamento, poi non si divertono fra loro, ma strani, questi dischi sono veramente boh, non so come sono riusciti a registrarli in questo modo, ma chi è? Che è successo? C'è qualcuno che si sente male? Ma male, proprio veramente male? È successo? Ah, da una copertina in bianco e nero a una copertina in bianco e nero? Questo signore lo conosco, quando combina questi pasticci musicali, sì sì. Si chiama Peter Gabriel. Il brano che ho scelto si chiama Not One of Us. Chissà se è bello. Buh. Thank you. Anche questo mi è piaciuto proprio oggi, una giornata è una nottata, è una serata, è un pomeriggio, è una mattinata, non lo so, veramente non riesco ad azzeccare. Succede, no? A volte entrate in un negozio di dischi, comprate due tre cose e poi andate a casa e non ve ne piace mezza. Oggi è una giornata che succede così, io non so che devo fare. Forse è meglio che così metta un sound un po' più sempliciotto, qualcosa di più. Ecco, qualcosa che mi riporta a immagini di una serie televisiva, che non so se televisiva, una serie web in sostanza. Chi la vede in televisione? Pochissimi. Tra l'altro una serie molto bella. Theodore Shapiro ha composto la musica. Al partire dalla quale subito entrate in sintonia con un certo ambiente. Io sinceramente non sono riuscito a vedere la serie tutta intera perché mi ha angosciato. E non ce l'ho fatta, non sono libero di non andare avanti, no? Di non vedere tutti gli episodi. Però il brano non l'avete sentito. Ah, accidenti. Va bene, allora io ve lo faccio riascoltare, va? Io sono molto curioso di tornare sui solchi dell'album di Terry Lynn Carrington. Has a rich and magnificent. Questo è un brano che si chiama All Africa. Full of adventure, excitement and mystery. Terry Lynn Carrington è insieme a Christy Daschle, some of it bitter, Widdy Brema, and some of it Milena sweet, Casado, Morgan Guerin, Simon Miller e Matthew but Stevens. All of it part of the beat, the beat. began with a chant and a hum and a black hand laid on a native drum. Bantu, Zulu, Watusi, Ashanti, Herero, Grebo, Igbo, Masuto, Nyasa, Ndombo, Mando, Bobo, Kongo, Hobo, Kikuyu, Bantu, Mosi, Kisi. È africano o ha detto una parolaccia? Vabbè, insomma. Jahomi, Fongo, Banjo, Bassa, Yoruba, Gola, Ila, Mandingo, Mangbetu, Yosi, Bali, Angoli, Biombi, Queen Sister, si chiama tutta l'Africa, All Africa. Fa ricordare molto un brano che era uno dei brani iniziali di un bellissimo album dei Chicago, Chicago 7, dove c'era questo lavoro sui flauti, sull'orchestra. È inutile andarlo a sentire adesso perché sennò raddoppieremmo il sound, no? Il tipo di sound. Io volevo andare a sentire invece un disco dove una signora ormai attempata, se mi sente me mena, mi tira un colpo col bastoncino, una certa Joni Mitchell nel 1975 festeggiarono il compleanno di Chas Mingus. Oh, Tim, you want to speak to that? That's right. He was born in 1922. That's right. Insomma, quanti anni ha fatto? 83, 84? Decidetevi, no? Il disco di nuovo, no, per carità, il disco è bellissimo perché chiaramente poi Joni Mitchell ha elaborato qualche cosa, un progetto che forse loro due avevano insieme a Charles Mingus. Con le sue accordature speciali della chitarra e con il basso suonato in questo modo. Sembra Giacco, vero? Potrebbe esserlo. In quel periodo un brano bellissimo. Questo mi piace, eh? God must be a boogeyman. Joni Mitchell. He is three, one's in the middle unmoved, waiting to show what he sees to the other two, to the one attacking so afraid, and the one that keeps trying to love and trust and getting himself betrayed. In the plan, oh, the divine plan, God must be a boogeyman. God must be a boogeyman. One so sweet, so overly loving and gentle, he lets people into his innermost sacred temple. Blind faith to care, blind rage to kill. Why do you let him talk him down to cheap work and cheap thrills? In the plan, oh, the insulting plan, forse qualcuno mi potrà smentire, c'era Giacco Pastorius da queste parti durante l'incisione di questo album, ma questo mi sembra Eddie Gomez. Which would it be, Mingus one or two or three? Which one do you think he'd want the world to see? Well, world opinion's not a lot of help when a man's only trying to find out how to feel about himself. In the plan, oh. Stiamo ascoltando un album di Joni Mitchell che si chiama Mingus, appunto dedicato a Charles Mingus, uno dei più grandi contrabbassisti della musica jazz. Tantissimi sono i musicisti, cioè Eddie Gomez, John Garang, Phil Woods, Jerry Mulligan, Johnny Richmond, Tony Williams, John McLaughlin, Ian Hammer, Stanley Clarke. E se prima c'era un compleanno, adesso c'è un funerale. E adesso una sedia. Essendo un album dedicato tutto completamente a Charlie Mingus, chiaramente ci sono degli inserti. Qualcuno sostiene che anche quello di prima fosse Jacob Astorius. Non lo so. Anche questo. Of the planet and shook me down for alibis. I'm waiting for the keeper to release. E c'è anche Herbie Hancock al piano elettrico. C'è una marea di gente in questo momento. Decimo album in studio della musicista canadese, Johnny Mitchell appunto, uscì il 13 giugno del 1979. E l'album, come avete capito, è una collaborazione tra Johnny Mitchell e Charles Mingus. E fu registrato nei mesi successivi, precedenti e successivi alla morte di Mingus. Abbiamo sentito, no? Un compleanno e un funerale. Che avvenne nel gennaio del 1979. Ecco, mi sono documentato un po' meglio. I musicisti che vi ho letto prima, Eddie Gomez, John Green, Phil Woods, eccetera, hanno suonato una prima session di questo album. Poi i nastri sono andati perduti, o comunque pare che esista una versione di questo album suonata da loro. E invece qui c'è, appunto, mi sembrava Jacob Astorius, Herbie Hancock. Non ho ancora sentito Wayne Shorter. Peter Erskine alla batteria, Donna Leas alle congas. Some friends I'm gonna miss. Beautiful lovers. I never got the chance to kiss. Daydreaming drugs the pain of living. Processions of missing lovers and friends fade in, and they fade out again. Rebirth. I see myself in style, raking in what I'm worth. Next time I'll be bigger, I'll be better than ever. I'll be resurrected royal, I'll be rich as Standard Oil. Eccolo Wayne. Manhattan. E altro che una sedia in cielo, qui ce ne vogliono parecchie. Straordinaria persona Johnny Mitchell. Dopo aver scompigliato tutto il mondo del country, dopo aver sorpreso per i testi scritti da una donna, di storie di donne, alla fine si è mescolata e incontrata con tutto un mondo del jazz dal quale ha trovato altra linfa creativa. Ma insomma, gli album di Johnny sono veramente tanti e tutti in qualche modo diversi o legati a un periodo o a un momento in cui la sua musica cercava delle sonorità. Questa è particolarissima. Pare che non avessero un bellissimo rapporto con Jaco Pastorius, però sentite come suona. Molto bello, molto bello. Vabbè, forse Jaco era uno che così creava delle problematiche, soprattutto per le sessioni di studio, ma insomma, alla fine il prodotto è bellissimo. We'll be right back. Diamo un salutino a Phil Collins, glielo devo fare sempre. Dispiace così tanto che non possa suonare. Questo album, Second Sounds, raccoglie il momento in cui finalmente il gruppo prende grande sicurezza per la nuova strada intrapresa. Ingaggiano Bill Bruford alla batteria, ingaggiano Chester Thompson. Phil canta, ma poi va anche alla batteria, quindi poi si suonano i pezzi con due batterie. E questo brano che noi lo abbiamo amato, con la voce di Peter Gabriel, stiamo sempre lì a sentire se lo fa bene. Carpet Crawl. Gotta get in to get out. Lamb Lies Down on Broadway è stato un album meraviglioso che in questi ultimi anni è al centro di rimasterizzazioni. Addirittura c'è un gruppo che lo ha rifatto da capo e benissimo, tra l'altro. Esiste questa registrazione, che l'album si chiama It ed è bellissimo. Devo dire, grandi complimenti, non è solo una cover band. When they come out, baby snakes, sure you know what I'm talking about. Siete su Samarcanda Digital Network. They make the best kind of head, baby snakes. Siamo sul dub. And there's a couple right near me. La trovate molto facilmente, eh? Samarcanda arriva subito. E poi si sente molto bene. E sul web, baby, online, baby snakes. RadioSamarcanda.it. Io sono Edith. We live in a ho, ho, ho, ho, ho. E lui è Frankie. That is usually empty. Usually empty. Tiny too. They live by a ho, ho, ho, ho, ho, ho. That is usually senti, which stands for Sight, Emotion, Picture and Television Engineer. Well, maybe I think that is what keeps them in sync. Well, and their pain, I think I'll give them a, give them a, give them a drink. Mi ci vuole sempre un po' per carburare all'inizio del programma, ma poi c'è un momento in cui riesco a capire la musica che voglio fare. Non riesco ancora a capire i volumi oggi, quindi abbiate pietà di me. Voglio parlare, però non voglio farmi sentire. Oggi c'è qualcosa di strano in me. Capito? Have been in me. Sì, come se ci fossimo posseduti, insomma. And we have been so intimately entwined, and it sure was fine. I have been in you, baby. You have been in me, and so you see, we have been so together. I thought that we would never return from forever. I have been in and out of you, and everywhere you want me to. Yes, you know it's true. And while I was inside, I might have been undignified. And that is maybe why you cry. I don't know, maybe so. But what's the difference now? Little girl, there ain't no time to wash your stinky hand. Go ahead and roll over. I'm going in you again, in you again, in you again, in you again. I'm going in you again. I'm going in you again. I'm going in you again. Yeah. true. I'm going in you again, baby, and later when we get through, I'm going. Vabbè, ridatemi il vinile, vi prego. Io mi scordo sempre che i file, la musica di Fred Zappa è tutta mixata, no? Quindi se tu passi da un brano all'altro, è chiaro che si crea quel tappo. Mi dovete perdonare oggi. Una ne faccio e un'altra ne penso. Ci sono quelle giornate così, no? Sghembe. È così. The mist across the window. Joe Jackson. But nothing hides the color of the lights that shine. Electricity so fine. Look and dry your eyes. So tired of all the darkness in our lives, with no more angry words to say can come alive. Get into a car and drive to the other side. Stepping out into the night, into the Jackson, questo era un bellissimo album, tutto, lui ne ha fatti tanti, tutti diversi praticamente, e cercava di imitare Lucio Battisti, nel senso cambiavano i tempi, cambiavano le mode e lui praticamente faceva dei dischi più o meno straordinari. Questo però è quello che radiofonicamente ha lavorato. No, senti chi sono questi. una sorpresa, un'assoluta sorpresa. Daddy Hall e Joe Notes. Da un albumetto molto simpatico che si chiamava H2O. Vabbè, carino questo pezzo, però secondo me paga un po', ma fa zanzare, quando è che se ne va? Paga un po' il... se ritorna qui la schiaccia. No, paga un po' il tempo, secondo me non è un brano che ha mantenuto una grande potenza, invece questo qua forse sì. In excess. Guns in the Sky. Shit. We can stop the world and let off all the fools and let them go live with it. Secondo me è il cantante degli In Excess australiani, mi pare, vero? Piaceva moltissimo Mick Jagger. È stato un album veramente bello questo qui, eh? C'erano un sacco di pezzi, uno più ballabile e bello dell'altro. Questo per esempio... C'è poco da fare. Ci sono dei gruppi che, come questi In Excess, provenienti dall'Australia, hanno una potente energia quando suonano, eh? La musica vola, è come, come posso dire, sì, ho capito, sono nuove sensazioni, però è come se avessero, è come se avessero, non mi viene la parola, ah sì, come se avessero il diavolo in corpo, per esempio. E che è? Che ho detto? Look in his eye. fed on nothing but full of pride. Look at them go, look at them kick. Makes you wonder how the other half live. Every single one of us, the devil inside. Devil inside, devil inside. Every single one of us, the devil inside. Oh. Here come the world, the look in its eyes. You're uncertain, but certainly slight. Look at the faces, listen to the bells. It's hard to believe we need a place called hell. Place called hell. The devil inside, the devil inside. Every single one of us, the devil inside. Devil inside, the devil inside. Every single one of us, the devil inside. Ooh. A Samarcand Digital Network. Qui ci vorrebbe una parlata alla Gigi Marziali. Stiamo andando verso la dirittura d'arrivo. Mancano un poco più di 30 minuti alla fine del spazio dedicato a Edith. Quando c'è della musica che tira, bisogna parlare anche un po' tirati, no? La zanzara, se la becco, mi sta massacrando. Che si può fare? Non riesco più a beccarne. Una volta, con la mano riuscivo a... Adesso niente, proprio niente. Sono proprio animali notturni, no? Infatti c'era un gruppetto, mi pare inglese, che si chiamava... Animal Nightlife, animale notturno. E avrò fatto un pezzettino molto carino. Che si chiamava Love is the Great Pretender. E qui sono dal vivo. Rapper. No, questa qui ha un trapano, non ha un pungiglione. Anche attraverso la scarpa è passata. No, vabbè. Nightlife. Love is the Great Pretender, captati dal vivo da qualcuno, sembra proprio un bootleg, però suonavano, si divertivano, erano molto simpatici, molto bravi. Poi ce n'è un altro di gruppetto, questi si chiamavano Fine Young Carnival. Johnny, Come Home. Come on, what is wrong in my life that Era un sacco di tempo che non sentivo i Fine Cannibal, poi mi è capitato di dare la voce al cantante che partecipava a un film bellissimo su una Londra che brucia. Il film si chiama Sammy e Rosie vanno a letto mentre Londra brucia. Ma insomma, gli inglesi in quel periodo avevano combinato, avevano preso il blues, avevano preso il jazz, avevano preso il cool, avevano fatto una miscelazione straordinaria, tutti bravissimi musicisti, cantanti pazzeschi, strumentisti. Questo era un altro gruppo con la quale finalmente io potevo ballare in discoteca. Questa era la musica che io ballavo, non ce n'era altra. Tutta quella dance, punci punci, balli balli, no, non mi ha mai incuriosito. Questa sì, questa mi piaceva. Come to my head. No, come to my head. Chiedo scusa, ogni tanto dico delle scemenze all'italiana. Simply Red. Yeah. Sempre Red, bellissimo quando si ballava con questo pezzo, quanto si ballava, era bellissimo perché poi c'era un DJ dove andavo nelle Marche che riusciva a mettere insieme Sting, Phil Collins e anche altri pezzi. Ecco, no, avevo sbagliato il brano, era questo. Certo, perché poi mi viene in mente anche altra roba, piano piano andando avanti, tutte le cose con cui in qualche modo mi divertivo a muovermi in discoteca. Non mi piaceva il sound techno, non mi piaceva il sound, anche perché voglio dire, c'è bisogno anche di altre bevute da quelle parti. A me piaceva, insomma, ballare, scambiarsi degli sguardi, star bene e ascoltare anche della bella musica, del sound alla Marvin Gaye, Sade. Together, handling Per la verità c'era un brano molto carino che mi piaceva da quell'album di Gary Hall e Joan Oates, ed era un brano che si chiamava 101, ma che mi ha fatto conoscere Rai Stereo 1 a quell'epoca. Era il 1993. Apriamo la finestra per far entrare altre zanzare, perché sennò si sente sola. Barry Hall e Joan Oates, 101. I'm tired of playing on the team. Ooh, it seems I don't get time out anymore. Oh, what a change if we set the pace. Face to face, no one even tried to score. And oh, oh, I can feel the magic of your touch. Mm-hmm. And when you move it close, a little bit means so much. And era molto bella, molto diversa dalle altre, aveva tutta una specie di livrea bianca e nera con un grande arco, non lo so, forse l'ho presa, dico forse perché l'ho vista gironzolare ancora intorno a me in cerca di qualche mozzico da darmi. 101, quanto è bello. È il senso della vita, no? Suonare di nuovo con lei, eh? Un play, sì, sì. Si fa per dire, eh? Vabbè, ho capito, non è che non ho capito, volevo soltanto fare lo spiritoso. No? Non ci riesco? Siete proprio antipatici oggi, eh? Bene, allora, a questo punto mi è venuto in mente un brano di un gruppettino, niente male. Lasciando gli Style Council. And still he lies awake at night. Everything but a girl. Restless while every silence screams. lui è bravo, ma anche lei. And still she sleeps, turned to the wall. He fears the onslaught of his dreams. Touches her back, but she doesn't stop. Then round her hand his fingers close, feeling the ring that cost more than the car. All of those questions that never arose. And still she lies away at night, silently stares at the bedroom wall, feeling his hand dare to touch her back. It's been a month since he started to paint the hole. And brightly burns the landing light. The baby's screaming down the hall. She shuts her eyes and she shuts her ears. She's had it up to here, 'cause it's not his baby after all. Qualcuno esce dalla scaletta, qualcun altro entra e mi serve per salutarvi. Lui si chiama Ronnie Jordan, da un album che in automobile viaggia in una maniera straordinaria. Can you see my sister? Can you see the new? Can you see my brother? Can you see the new? Edith vi lascia fra le braccia di Ronnie Jordan e intanto raccoglie le sue cose. Ma ci risentiamo, eh? Ci rivediamo, ci risentiamo. Vediamo, no, perché non ci piace dalla telecamera. Magari una foto, non lo so. Tornate nella stanza del nonno, presto. Li voglio tutti qui. Poi ditemi se l'orario va bene, se vi piace questo orario o ne volete un altro. Quando è che siete a casa o nel posto giusto per ascoltare la musica? Perché mi sposto. Ok? Grazie. Ciao. The new vibe shaking me, making me alive and drive. Striving towards my goal, the old five. Minute temporary thrills I've done with, 'cause I'm a serious brother man, not a dumb kid. It's rapidly dawning on me the morning, and I stop yawning, forming in my brain a new plan for you and yours. Can get or stop rolling upstream. It's a must, I trust all of us can lift the cup team and see the new meaning of the word togetherness. Climb it like Everest and we'll be forever blessed. I press the pulse, we're still ticking over. As I know we all can drop a word like a chauffeur. I hope for your help, so pick up yourself and see the new day breaking, making you tighten your belt. I melt the ice that's blocking the path from me to you. Can you see it now, brothers? Can you see the new? Yes, the light is now shining through, and I see a new view. And now I'm no longer cute without a clue. Oh, idea, I feel white fear, the stumbling blocks. You know, there's always keys to lock, still flux. Fail to see a new way out, try tackling the problem. Laterally, literally, make the mystery history. Why cope with eating without a glimmer of hope? When there's always a rope to pull you up a slope, no need to grow. Around in the dark, take your gear out of park. Put it into first and not reverse when things get worse. Hark, the Herald New School poet on the mic sings. Got to see the new ways you can pull strings. In order to get what you want out of this life, strife must end. Put the pen to the paper, the shaper. Things to come can be pleasant if only me and you. Break free, break through, see the new, see the new. See the new. Can you see it, my brother?